ad alta voce. Enzo Turrin legge Jacob von Gunten di Robert Walser. Traduzione di Emilio Castellani. Nona puntata. Ho parlato col signor Beniamento, o meglio, è stato lui a parlare a me. Jacob, mi ha detto, dimmi un po', non trovi che la vita che conduci qui è gretta, proprio gretta, eh? Vorrei conoscere la tua opinione, parla francamente. Io preferii tacere, ma non per sfida. Certe aree le ho perdute da un pezzo. Tacqui, invece, pressa poco come se avessi voluto dire, signore, mi consenta di tacere. A una simile domanda potrei tutt'al più rispondere in modo sconveniente. Il signor Beniamenta mi guardò con attenzione e io pensai che avesse capito il mio silenzio. Così era in realtà, perché tutt'a un tratto egli sorrise e disse: «Non è vero, Jacob, che ti meraviglia un poco come noi qui all'istituto passiamo la vita pigramente, quasi fossimo assenti in spirito. Non ho ragione? Non te ne sei accorto? Ma non voglio assolutamente provocarti a rispondere con insolenza. Devo confessarti una cosa, Jacob. Ascoltami. Per me tu sei un ragazzo intelligente e per bene. Adesso ti prego, diventa sfacciato. E io mi sento costretto a farti ancora un'altra confessione. Io, il tuo direttore, sono ben disposto verso di te. E una terza cosa ti devo confessare. Ho concepito per te una predilezione strana, del tutto particolare e ormai irrefrenabile. Adesso ti mostrerai ben sfacciato con me, ne è vero, Jacob? Ne è vero, giovanotto mio, adesso che di fronte a te ho mostrato il mio punto debole, avrai il coraggio di trattarmi con disprezzo e mi sfiderai? È così? Dimmi, è così?» Ci guardavamo negli occhi, lui, l'uomo barbuto, e io, il giovane. Era come se ci battessimo in un invisibile duello. Stavo già per aprir bocca e pronunciare una qualsiasi frase d'ossequio, ma riuscii a padroneggiarmi e tacqui. E in quell'attimo mi accorsi che il gigantesco signor direttore tremava. Tremava leggermente. Da quel momento era subentrato fra noi qualcosa come un legame. Lo intuivo, certo, e non solo lo intuivo, ma lo sapevo. Il signor Beniamenta mi tiene in considerazione, dissi tra me, e colpito da quell'improvvisa rivelazione come da un fulmine, trovai conveniente, anzi, addirittura doveroso, il silenzio. Guai se avessi detto anche una sola parola. Pronunciarla sarebbe stato come abbassarmi alla condizione di scolaretto insignificante, mentre mi ero appena inerpicato a un'altezza per nulla scolastica, ma umana. Sentivo profondamente tutto ciò, e ora so bene di essermi condotto come il momento esigeva. Allora il direttore, fattomi sì molto vicino, disse: «In te c'è qualcosa di notevole, Jacob». Si interruppe e io capii subito perché, senza dubbio, voleva vedere come mi sarei comportato ora. Me ne resi conto e perciò non mossi un sol muscolo del viso, ma continuai a guardar fisso, quasi assente, nel vuoto. Poi i nostri sguardi tornarono a incrociarsi. Io fissavo il mio direttore con aria severa, dura. Fingevo chissà quale freddezza o superficialità, mentre avrei solo desiderato ridergli in faccia di gioia. Ma contemporaneamente lo vedevo, egli era soddisfatto del mio contegno e alla fine disse: «Ragazzo mio, torna al tuo lavoro, occupati in qualche modo, oppure va a discorrere con Kraus. Su, va». Io feci un profondo inchino in piena regola e mi allontanai. Uscito nel corridoio, feci quello che avevo già fatto una volta e che pure rispondeva pienamente alle regole. Mi fermai e posi l'orecchio al buco della serratura per sentire se qualcosa si muoveva là dentro. Ma il silenzio era completo. Mi venne da ridere. di un riso leggero e felice. Poi andai nell'aula, dove trovai Kraus seduto nella semioscurità, come circonfuso da una luce d'imbrunire. Rimasi fermo a lungo. Proprio così. Me ne restai lì, immobile, per un pezzo, perché c'era qualcosa. Chissà che cosa di preciso, che non riuscivo a capire. Mi sembrava di essere a casa. No, mi sembrava di non essere nato, di nuotare in una materia prenatale. Sentivo un gran caldo e avevo davanti agli occhi come l'ondeggiare del mare. Mi avvicinai a Kraus e gli dissi: «Di, Kraus, ti voglio bene». «Che razza di discorsi», borbottò lui. Io mi ritirai in fretta nella mia stanzuccia. «E adesso? Siamo amici, io e il signor Beniamenta. Siamo amici? Indubbiamente c'è un rapporto tra noi due, ma quale? Mi proibisco di tentare di accertarlo. Voglio restare chiaro, leggero e sereno. Bando ai pensieri». Ancora non ho trovato un posto. Il signor Beniamenta mi dice che si dà d'attorno per cercarmelo. Lo dice in tono brusco di comando e aggiunge: «Che hai? Sei impaziente? C'è tempo per tutto, aspetta». Di Kraus si dice tra gli allievi che presto lascerà. Lasciare. Buffa questa espressione di gergo. Davvero Kraus andrà via? Speriamo che si tratti solo di voci infondate, di storie sensazionali da collegio. Anche tra noi allievi regna qualcosa di simile al pettegolismo dei giornali, l'uso di arraffare notizie dal puro nulla. I mondi, me ne accorgo, sono uguali dappertutto. A proposito, sono tornato a trovare mio fratello Johann e questi ha avuto l'ardire di portarmi in società. Ho pranzato al tavolo di gente ricca e non dimenticherò mai come mi sono comportato. Indossavo una marsina usata, ma pur sempre imponente. Le marsine danno un'aria di persona anziana e importante. Mi sono atteggiato alla maniera di chi disponga di almeno 20.000 marchi di rendita annua. Ho parlato con persone che mi avrebbero voltato le spalle se avessero avuto un'idea del mio vero essere, delle signore che mi disprezzerebbero totalmente se dicessi loro che sono uno scolaro. Mi hanno sorriso e direi qua quasi ammiccato in modo incoraggiante, e ho trovato sbalorditivo il mio appetito. Con quanta facilità ci si serve alle ricche mense di estranei. Vedevo quel che facevano gli altri e facevo bravamente lo stesso. Che brutto! Davvero quasi mi vergogno di aver mostrato lì, proprio tra quella gente, una faccia esultante di mangione e di beone. Raffinatezza di modi ne ho notata ben poca. Ho notato invece che mi si giudicava un giovanetto timido, mentre io, ai miei occhi, scoppiavo di sfacciataggine. Johann si comporta bene in società. Ha quella piacevole leggerezza di tratto tipica dell'uomo che vale e sa di valere. Il suo contegno è un diletto per gli occhi che lo osservano. Sto parlando troppo bene di Johann? Oh no, non sono affatto innamorato di mio fratello, ma mi sforzo di vederlo intero, non a metà. Forse è proprio amore questo. Niente in contrario. Andammo anche a teatro e fu bellissimo, ma su ciò non voglio diffondermi. Dopo mi sono sfilato quel bell'abito. Oh, è carino andarsene a ronzare in giro nelle vesti di una persona altolocata. Sì, ronzare in giro proprio così. Si va intorno pigolando e frullando in quei circoli di gente colta. Alla fine mi sono rimpiattato nell'istituto e ho rimesso il mio vestito di allievo. Sto bene qui, lo sento, ed è probabile che in seguito, quando sarò diventato qualcosa di importante, debba provare una stupida nostalgia per i Beniamenta. Ma non diventerò mai e poi mai qualcosa di importante, e questa certezza anticipata mi fa tremare di strana soddisfazione. Un bel giorno mi toccherà un colpo, uno di quelli che annientano una persona, e allora tutto finirà. Finirà questo intrico, questo struggimento, questa ignoranza, tutto, tutto, gratitudine e ingratitudine, menzogna e miraggi, questo creder di sapere e invece non saper mai niente. Però desidero vivere. Non importa come. È avvenuto un fatto incomprensibile, può anche darsi che non debba significar niente, sono assai poco incline a lasciarmi sopraffare dai misteri. Verso mezzanotte ero seduto nell'aula, quando d'improvviso vidi dietro di me la signorina Beniamente. Non l'avevo sentita entrare, evidentemente aveva aperto la porta pian piano. Mi chiese che cosa stessi facendo, ma dal suo tono già si capiva che non avrei avuto bisogno di rispondere. La sua domanda stessa, per così dire, sottintendeva che lei sapeva già, e in tal caso evidentemente non occorre risposta. Mi posò la mano sulla spalla come se fosse stanca e sentisse necessità di appoggiarsi. E quel gesto mi diede la precisa certezza che le appartenevo. Che vuol dire le appartenevo? Sì, che ero puramente e semplicemente suo. Ho sempre una certa diffidenza verso i sentimenti, ma che io in quel momento quasi appartenessi a lei, alla signorina, era una sensazione autentica. Ci completavamo l'un l'altro, con una certa differenza, ben inteso. Tutto a un tratto però ci trovavamo vicinissimi. Sì, sì, sempre con una certa differenza. Mi è francamente odioso sentire così poche differenze o addirittura nessuna. Il fatto che la signorina Beniamenta e io formassimo due esseri ben caratterizzati e distinti, l'avvertire questo fatto mi riempiva di felicità. Io del resto trovo indegno di mentire a me stesso e considero miei nemici le distinzioni e i privilegi che non siano assolutamente, interamente puri. Una grande differenza, dunque, esisteva. Insomma, che significa? Non riesco a raccapezzarmi in certe differenze, ma a quel punto la signorina improvvisamente disse: «Vieni con me, alzati e seguimi, voglio mostrarti una cosa». Uscimmo insieme, davanti ai nostri occhi o almeno davanti ai miei, ai suoi forse no. Tutto era immerso in un'oscurità impenetrabile. «Siamo negli appartamenti interni», pensavo, e non mi ingannavo. Le cose stavano così e la mia cara insegnante pareva decisa a svelarmi un mondo che finora mi era stato nascosto. Ma ho bisogno di riprendere fiato. Dapprima, come ho detto, era tutto buio. La signorina mi prese per mano e disse in tono affabile: «Vedi, Jacob, tutto sarà così nero intorno a te, e allora ci sarà qualcuno che ti condurrà per mano, e tu ne sarai lieto, e per la prima volta proverai una profonda gratitudine. Non essere maldisposto. Ci saranno anche dei momenti di luce». Aveva appena finito di pronunciare queste parole che una luce bianca, abbacinante, arse incontro a noi. Si disegnò una porta e ambedue ci addentrammo, lei davanti, io seguendola dappresso, nel meraviglioso rogo di luce. Non avevo mai visto nulla di così splendido e suggestivo, tanto che ne ero come stordito. Sorridendo ancora più affabilmente di prima, la signorina mi parlò: «Questa luce ti abbacina? Allora sforzati di sopportarla. Essa significa gioia ed è necessario saperla provare e sopportare. Non ti vieto certo di pensare che significhi la tua felicità futura, ma guarda un po' che succede. Sparisce. La luce si decompone. Questo vuol dire, Jacob, che la felicità che conoscerai non sarà lunga né durevole. Ti addoloro parlandoti così sinceramente, ma no, via, prosegui. dobbiamo un poco affrettarci perché abbiamo ancora da attraversare parecchie apparizioni e da tremarvi. Dimmi, Jacob, le intendi le mie parole? Taci, taci, non devi parlare qui. Mi credi una maga? No, non sono una maga. Certo, una piccola pratica di magie, di seduzioni, questa sì, come ce l'ha ogni fanciulla, ce l'ho anch'io. Ma adesso vieni. Mentre così parlava, la venerata fanciulla aprì una botola, non senza che io l'aiutassi. E discendemmo insieme, sempre lei facendomi strada, in un profondo sotterraneo. Al termine degli scalini di pietra camminammo finalmente su un terreno umido e molle. Avevo l'impressione di essere al centro della terra, talmente profondo e solitario mi sembrava lì. Avanzammo per un lungo passaggio tenebroso. «Ci troviamo ora», disse la signorina Beniamenta, «nelle cripte e negli ambulacri della povertà e della privazione. E poiché tu, mio caro Jacob, probabilmente dovrai rimanere povero tutta la vita, tenta fin d'ora, ti prego, di assuefarti un poco al buio e all'odore freddo e penetrante che regnano qui. Non spaventarti, non adontarti. Dio è anche qui, come dappertutto. Bisogna imparare ad amare la necessità, ad averne cura. Bacia, ti prego, la terra umida del sotterraneo, sì, baciala. Darai così la prova tangibile della tua docile sottomissione alla durezza e alla tristezza che, a quanto sembra, formeranno gran parte della tua vita». Le ubbidì, mi gettai sulla terra fredda e la baciai pieno di fervore. E in quell'attimo mi sentii percorrere da un brivido indicibile, freddo e caldo a un tempo. Proseguimmo il cammino. Oh, quei corridoi dell'angoscia e della tremenda rinuncia mi parevano non mai finire, e forse davvero non finivano mai. I secondi erano lunghi come vite, i minuti si dilatavano a secoli di dolore. Basta, finalmente giungemmo a una tetra muraglia e la signorina disse: «Va a carezzare quel muro, è il muro del cruccio. Lo troverai sempre ritto davanti ai tuoi occhi e sarebbe sciocco odiarlo». Ah, è proprio questo rigore inesorabile che bisogna sforzarsi di ammorbidire. Va, prova. Rapidamente, come spinto da una focosa passione, mi avvicinai alla muraglia e mi gettai al suo petto, sì, a quel petto di pietra, e le dissi delle parole amiche, quasi scherzose, ed essa, come era da attendersi, restò immota. Recitavo la commedia, tanto per far contenta la mia insegnante, sebbene fosse tutto fuorché commedia quello che stavo facendo. E tuttavia sorridevamo, lei, la maestra, e io, l'immaturo scolaro. «Vieni», disse, «ora concediamoci un po' di libertà, un po' di motto». Così dicendo toccò la muraglia con la sua ben nota bianca bacchetta di sovrana e tutto l'orrido sotterraneo sparì e ci trovammo su una pista di ghiaccio o di vetro, liscia, stretta, priva di ripari. Vi scivolavamo sopra come su miracolosi pattini e insieme danzavamo, poiché la pista si alzava e si abbassava sotto di noi come un'onda. Era esaltante. Non avevo mai visto niente di simile e gridai pieno di gioia: «Che bellezza!» Le stelle scintillavano sopra le nostre teste in uno strano cielo azzurro pallidissimo e insieme cupo, e la luce ultraterrena della luna contemplava noi che pattinavamo quaggiù. «Questa è la libertà», disse la maestra. «È qualcosa di invernale, qualcosa che non si può sopportare a lungo. Bisogna sempre muoversi come facciamo ora, bisogna danzare nella libertà. È fredda, è bella, solo non innamorartene. Non ne ritrarresti che dolore, perché solo per brevi momenti, non più di tanto, si può indugiare nelle regioni della libertà. Guarda come la meravigliosa pista sulla quale stiamo scivolando lentamente si dissolve. Adesso potrai veder morire la libertà se aprirai gli occhi. Questo spettacolo angoscioso ti si offrirà più volte nel corso della vita. Non aveva ancora terminato di parlare che scivolammo da quella conquistata altezza e allegrezza in qualcosa di fiacco e di arrendevole. Era una piccola alcova, tutta foderata e ricolma di raffinate comodità, olezzante di dolci fantasticherie, riccamente tappezzata di ogni sorta di scene e figure lascive, insomma, un'alcova piena di tutti gli agi. Molte volte avevo sognato di conoscere una vera alcova e qui mi trovavo in una di esse. Dalle pareti variegate stillava musica simile a soavissima neve. Si vedevano addirittura i suoni formarsi. Le note somigliavano a uno sfarfallio incantevole. «Qui», disse la signorina, «puoi riposarti. Quanto a lungo sei tu che devi dirlo a te stesso?» Sorridemmo entrambi per queste parole sibilline e benché mi sentissi invaso da un'indicibile quanto dolce apprensione, non esitai ad abbandonarmi su uno dei tappeti che mi erano distesi dinanzi. Una sigaretta di gusto squisito volteggiò dall'alto fino a posarsi nella mia bocca involontariamente schiusa. E fumai. Un romanzo frullò diritto alla volta delle mie mani e potei leggerlo indisturbato. «Non è roba per te. Non leggere codesti libri. Alzati, cammina piuttosto. Le mollezze conducono alla spensieratezza e alla crudeltà. Senti questo brontolio rabbioso di tuono che si sta avvicinando? È il disagio. In questa alcova hai goduto la pace degli agi, adesso il disagio si scatenerà su di te e il dubbio e l'inquietudine ti intrideranno. Vieni, è necessario entrare da valorosi nell'inevitabile». Così parlò la mia maestra. E aveva appena pronunciato queste parole che mi sentii immerso in una densa corrente di dubbio, molesta in sommo grado. Tutto sgomento, non osavo neppure guardarmi intorno per vedere se lei mi era ancora accanto. No, la mia maestra, l'evocatrice di tutte quelle apparizioni e condizioni, era scomparsa. E io continuavo a nuotare da solo. Tentavo di gridare, ma l'acqua minacciava di entrarmi in bocca. Oh, quel disagio! Piangevo, mi pentivo amaramente di essermi abbandonato alla voluttuosa comodità. E improvvisamente mi ritrovai nell'istituto Beniamenta, seduto nell'aula semibuia, e la signorina Beniamenta stava ancora alle mie spalle e mi accarezzava le guance. Però era come se non io, ma lei stessa avesse bisogno di consolazione. «È infelice», pensai. In quella entrarono Kraus, Schacht e Schilinski, di ritorno da una passeggiata. La fanciulla ritrasse in fretta la mano dalla mia spalla e andò in cucina a preparare la cena. «Avevo sognato? Ma perché domandarmelo se adesso si va a cena?» Ci sono delle ore in cui mangio terribilmente di gusto, in cui sono capace di addentare i cibi più stupidi con la voracità di un garzone manovale. E allora è come se vivessi in una favola, non più da uomo civile in un'epoca di civiltà.